E quello che ho scelto, io nel tempo perso a cercare, voglio darle un senso, un giusto compenso, capire il verso. Cosa faccio qua? È quello che ho scelto, le ore, il tempo perso a cercare, voglio darle un senso, un giusto compenso, capire il verso. Cosa faccio qua? Gli occhi stanchi, la voglia di dire mi manchi, le notti bianche da sporcare, poi dimenticare. Metti l'intento, talento e rendimento, senza mai un rientro, senza essere contento. I cambi d'umore, quelli di tempo, versi d'autore senza sapore, quelli veri da fare spavento. I passi guidati dallo stipendio, i salti mortali di chi da tanto ci dà dentro. Dall'inverno all'inverno, sullo schermo, con il mondo che va e ne rimane all'esterno. Un coltello regalato da un fratello, la voglia di vivere l'impossibile, l'odio a cui mi ribello. Le bugie a fin di bene, le verità da non sapere, i dubbi da adesso tutto può accadere. E comunque ci ho messo sempre del mio, per far sì di non patire più di tanto in una via. È quello che ho scelto, le ore e il tempo perso a cercare, voglio darle un senso, un giusto compenso, capire il verso. Cosa faccio qua? È quello che ho scelto, le ore e il tempo perso a cercare, voglio darle un senso, un giusto compenso, capire il verso. Cosa faccio qua? Recentemente mi hanno chiesto se mi voglio bene, ho detto gia di brutto, ho preso il contropiede. Raramente ho pensato alle storie serie, avere cose in comune, passare giornata assieme. La coscienza controlla tutte le sere, mi dà il via per dormire o stare svegli a approfondire. Ma se dovessi soffrire senza capire, non sapere più che dire, mi resterebbe morire. La mia vita è fatta di alti e bassi, visioni lontane ma poi gli stessi passi. Dove vai, te ne vai, con chi vai, ma poi ripassi. Siamo qua, noi, voi, fermi e duri come sassi. Invento le frasi, poi le canto a memoria. È un grande diario per una piccola storia, che comunque ho fatto sì di avere qualcosa di mio, per far sì di non patire più di tanto in un addio. È quello che ho scelto, le ore e il tempo perso a cercare, voglio darle un senso, un giusto compenso, capire il verso. Cosa faccio qua? È quello che ho scelto, le ore e il tempo perso a cercare, voglio darle un senso, un giusto compenso, capire il verso. Cosa faccio qua? Cosa faccio qua? Cosa faccio qua? Dino e che io vi nego. Cosa faccio qua? Insieme allo scino faccio XXX numero 7. Bella raga, dobbiamo prenderci meglio, dobbiamo guardare sempre avanti. Indietro c'è della merda, ma davanti se apriamo delle nuove porte magari c'è una fugata. Se ci fermiamo a prenderci male succede un gran casino. Raga, io sono il primo preso male, sono il primo che capisce che a star così è una merda. Destinare.